Se scrivessi una lettera affettuosa per raccomandarvi di andare d'accordo in famiglia, per insegnarvi come si devono comportare un genitore e un figlio, per implorarvi di volervi bene e di amarvi gli uni e gli altri, per ricordarvi quante cose vi ho insegnato insistendo che dovete amare Dio e suo figlio in modo pratico, e poi terminassi la lunga lettera con un «Mi raccomando, state attenti di non fare incidenti in macchina», cosa pensereste? Forse di tutta la lettera vi ricordereste solo questa ultima esortazione. Cosa hanno in comune gli incidenti in macchina con tutta la lettera? Indirizzata a vivere bene in famiglia, a volersi bene, a comportarsi bene e ad amare sinceramente. Dio. Ebbene, chi riceve una simile lettera con un finale del genere è obbligato a chiedersi dove stia il nesso fra l'essere prudenti nel guidare la macchina e il cercare una buona armonia familiare. Stessa cosa succede quando leggo la prima lettera scritta da Giovanni l'Apostolo. Una lettera meravigliosa, piena di affetto, che esorta i credenti ad amarsi, a comportarsi bene, a vivere per Dio, ma terminante con una esortazione veramente fuori da ogni discorso fatto prima, che c'entra come i cavoli a merenda e lascia veramente perplesso chi la legge. Giovanni conclude la sua lettera dicendo: «Figlioli, guardatevi dagli idoli, punto e basta, idoli, che c'entrano gli idoli». Prima di accantonare o ignorare un simile incoraggiamento, che a prima vista sembra proprio fuori posto, ho fatto alcune riflessioni. 1. Se Giovanni ha scritto quello che ha scritto, vuol dire che è importante. 2. L'Apostolo usa di nuovo l'appellativo figlioletti, un termine che esprime con quanto calore fa la sua esortazione. 3. Se Giovanni ha scritto di guardarsi dagli idoli, voleva dire che chi riceveva la lettera sapeva cosa doveva fare. 4. L'esortazione di Giovanni doveva veramente essere importante per averla po'. 5. Giovanni non ha ritenuto assurda la propria esortazione, anzi sembra proprio essergli scaturita con la massima naturalezza e in armonia con tutto il resto. 6. Tutte le lettere degli Apostoli terminano con dei saluti o con delle benedizioni, ma Giovanni termina questa prima lettera con un secco ammonimento o un perentorio o listo imperativo, come ha fatto notare un biblista, quasi che i lettori fossero assaliti da ogni forma di idolatria. 7. Se i primi credenti in Cristo dovevano stare in guardia dal pericolo degli idoli, non dobbiamo forse noi oggi fare altrettanto? 8. Quali sono gli idoli di oggi? Penso che sia opportuno iniziare a rispondere dall'ultima domanda, perché se non sappiamo cosa sono gli idoli, non possiamo neppure rispondere alle altre. Cos è un idolo? Le definizioni possono essere certamente tante, ma ho preferito le seguenti. 1. E. Qualsiasi cosa considerata più importante di Dio, qualsiasi cosa che assorbe il cuore e l'immaginazione più di Dio. 2. Qualsiasi cosa alla quale chiedi ciò che solo Dio può dare. 3. Ogni valore non assoluto, ma che viene reso assoluto e rivendica di essere il centro della vita. 4. E. La pratica che divinizza ciò che è creaturale e che assolutizza ciò che è contingente. 5. E. Ciò che attribuisce prerogative divine a ciò che fa parte del mondo creato. Queste definizioni dell'idolatria dicono tutto, come anche niente, dato che non scendono in particolari. E questo perché gli idoli e i loro falsi profeti non indossano più uniformi immediatamente riconoscibili. Se i profeti di Yahweh, come Isaia, potevano burlarsi degli idoli degli altri popoli, quando li confrontavano con il vero Dio che ha creato i cieli e la terra, oggi abbiamo idoli, camuffati sotto uno strato polveroso di religione cristiana. Millenni di anni fa, l'Eterno Dio aveva dato l'ordine di sterminare i falsi idoli, mentre Gesù disse che sarebbe venuta l'ora nella quale i veri credenti sarebbero stati uccisi dai profeti di questi idoli, mossi dalla convinzione di offrire un sacrificio a Dio. Le cose sono sensibilmente cambiate o rovesciate. Non sono più i veri credenti a distruggere gli idoli, ma sono questi ultimi e i loro profeti a distruggere, se fosse possibile, i veri credenti. Perché, come è stato detto, l'idolatria è sempre collegata ad una forma di errore. E se la vita è religione, nel senso che è un legame o un patto con la divinità, qualsiasi essa sia, ne consegue che questa vita sia esposta ad una costante idolatria, perché qualsiasi cosa può diventare più importante di Dio, soprattutto le cose più lecite. Quando Gesù disse di cercare prima il regno di Dio, piuttosto che il cibo e il vestiario, non aveva intenzione di rendere i suoi seguaci poveri e miserabili, ma li esortava per evitare che cadessero nell'idolatria. Chi lo ha capito? Oggi ci sono credenti idolatri, come al tempo del re Osea, ultimo re di Israele, quando il re di Assiria deportò in cattività i giudei di Samaria e, al loro posto, fece arrivare gente di altre nazioni, le quali, come è scritto, temevano l'Eterno e, nello stesso tempo, continuavano a seguire le loro antiche usanze, cioè a servire i loro idoli. 2 Re 17:4041. Questo compromesso diabolico è sempre stato presente nella Chiesa, perché per cambiare un cuore ci vuole un attimo da parte di Dio, ma per cambiare mentalità occorre tutta una vita. Lo dimostrano tutte le accorate lettere di Paolo alle chiese allora esistenti. Pochi credenti non erano caduti nell'idolatria. Non è possibile affrontare un tema del genere senza dare uno sguardo al Catechismo della Religione Cattolica Romana 2113, il quale, in merito ai 10 comandamenti, sotto la voce idolatria, dichiara: l'idolatria non concerne soltanto i falsi culti del paganesimo. Rimane una costante tentazione per la fede. Consiste nel divinizzare ciò che non è Dio. E, idolatria, quando l'uomo onora e riverisce una creatura al posto di Dio, si tratti di dei o dei demoni, per esempio il satanismo, oppure di potere, del piacere, della razza, degli antenati, dello Stato, del denaro, eccetera. Non potete servire a Dio e a Mammona, dice Gesù, M26.24. Numerosi martiri sono morti per non adorare la bestia, rifiutando perfino di simularne il culto. L'idolatria respinge l'unica signoria di Dio, perciò è incompatibile con la comunione divina. Parole più che giuste, ma quanti osservano tale visione della fede cristiana? La quasi totalità degli italiani non riverisce forse una creatura al posto del Creatore? Dove sono coloro che a costo della loro vita, meno che dico a costo della loro reputazione, rifiutano di simulare un culto a coloro che sono chiamati santi? Chi sono coloro che accettano l'unica signoria di Dio e rifiutano la signoria degli uomini aventi la pretesa di essere investiti di un'autorità da parte di Dio? Quando Tertulliano, vissuto nel III secolo, scriveva che la colpa principale del genere umano, il terrore più grave nel mondo, e ogni ragione di riprovazione e di condanna risiede nell'idolatria, lo diceva forse solo per la sua epoca, o esponeva un principio ancora valido oggi. Quando scriveva ancora che l'idolatria fa oggetto della sua frode Dio, nega a questi gli onori che gli sono dovuti e li trasporta in altri esseri, non è forse una verità valida anche oggi? Quando il diavolo chiese a Gesù di prostrarsi davanti a lui come segno di riverenza e di adorazione, Gesù gli rispose che è scritto di adorare solo Dio e di rendere il culto solo a lui. Dove sono oggi le persone che hanno il coraggio di fare questo? Chi è colui o chi sono coloro che non si conformano alle usanze di oggi tramandate da millenni da persone pagane, per ubbidire a Gesù adorando Dio mediante lo Spirito Santo e per mezzo della verità? È vero che gli idoli e i loro falsi profeti non indossano più uniformi immediatamente riconoscibili, ma l'attuale realtà sopradescritta non è dovuta all'impossibilità di riconoscimento degli abiti degli idoli o dei profeti, ma alle menti delle persone sempre più conformate allo spirito moderno. Quello spirito che genera grandi e onorevoli pensieri sull'uomo e anche al crescente disorientamento provocato dallo scetticismo nelle menti cristiane. Brutta faccenda questa che ha portato Gesù a dire profeticamente: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Luca 18:8. In questa domanda condanna sono compresi anche coloro che si professano cristiani. Proprio perché il cristiano è costantemente tentato dall'idolatra, proprio perché qualsiasi cosa può diventare più importante di Dio, proprio perché è tentato a rivendicare più se stesso che Dio. L'Apostolo Giovanni termina la sua lettera avvertendo i credenti di guardarsi dagli idoli, idoli che si possono ravvisare nelle illusioni dei sensi, in opposizione alla realtà ultima, nel seguire maestri umani più che Cristo, nel volere a tutti i costi una stima che non è possibile ottenere, nel compiacersi del proprio ministero di guarigione o di predicazione, nello stare con cocciutaggine, alla guida di un'assemblea quando non se ne hanno più le capacità, nello svolgere il compito di insegnamento con atteggiamento di superiorità, nell'assolvere il ruolo di genitore senza sottomissione, nell'essere moglie senza sottomissione o marito senza la dovuta comprensione. La lista potrebbe essere infinita come è infinito il cuore dell'uomo, che è a render tristi e che si diventa coscienti di tanti idoli solo dopo un lungo percorso nelle vie di Dio, dopo una totale consacrazione, dopo un deciso rifiuto di tutto ciò che è terreno e mutevole, per abbracciare, senza nostalgia del passato, ciò che non si vede, cioè che è eterno. Anche dopo aver fatto questo, i pericoli degli idoli non sono finiti, perché malvagi come siamo, tendiamo ancora a preferire i beni spirituali, le gioie future, le felicità eterne, a Cristo stesso, colui nel quale Dio ha promesso ogni cosa, solo alla presenza di Cristo. Perché liberati per sempre da ogni legame terreno, potremo realizzare che Dio è veramente tutto, che tutto senza Dio è niente, e pur possedendo niente con Dio sia tutto. Quando Paolo esortò i credenti di Colosse a cercare le cose di lassù col 3.1, quando espresse il proprio apprezzamento veramente sul serio riguardo a tutto ciò che apparteneva al regno di Dio, più che a ciò che era terreno, egli non possedeva nulla ma proprio nulla. Non possedeva nessun bene terreno. Non era stimato dagli uomini, era continuamente perseguitato per la sua fede e fedeltà, aveva un corpo martoriato a causa di Cristo, soffriva ogni giorno per le anime perdute e per il popolo di Israele al quale apparteneva. Era morto, cioè come se non esistesse, ad ogni divertimento del mondo. Pativa continuamente fame, sete e freddo. Credo che sia poco efficace esortare i credenti a non avere idoli soltanto, ma se venissero a trovarsi nelle condizioni di Paolo, se amassero situazioni di debolezze e di necessità più delle comodità, se amassero persecuzioni e avversità più degli onori, molti idoli non esisterebbero. Ecco perché vale sempre l'esortazione di Giovanni, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Aprile 2011, Ellero,